616. Crostate. Per crostate io intendo quelle torte che hanno per base la pasta frolla e per ripieno le conserve di frutta o la crema. Prendete la dose intera della ricetta del B, numero 589, o la metà della ricetta A, e in ambedue servitevi, come si è detto, di un uovo intero e un torlo. Ma prima di metterli nella pasta, frullateli a parte e per risparmio lasciate indietro un po' d'uovo che servirà per dorare la superficie della crostata. Alla pasta frolla che deve servire a quest'uso sarà bene dare un qualche odore come quello di scorza di limone o d'acqua di fior d'arancio. Il meglio sarebbe servirsi esclusivamente della ricetta C. Per formare la crostata, spianate col materello liscio una metà della pasta per avere una sfoglia rotonda della grossezza di uno scudo all'incirca e ponetela in una teglia unta col burro. Sopra la medesima distendete la conserva oppure la crema o anche l'una e l'altra, tenendole però separate. Se la conserva fosse troppo soda, rammorbiditela al fuoco con qualche cucchiaiata d'acqua. Sopra la conserva distendete a uguale distanza l'una dall'altra tante strisce di pasta tirata col materello rigato, larghe un dito scarso, e incrociatele in modo che formino un mandorlato. Indi coprite l'estremità delle strisce con un cerchio all'ingiro fatto con la pasta rimanente, inumidendolo con l'acqua per attaccarlo bene. Dorate con l'uovo lasciato a parte la superficie della pasta frolla e cuocete la crostata in forno o nel forno da campagna. Migliora dopo un giorno o due.